Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ultima puntata di Focus Economia anche oggi in diretta da Trento, dove c'è la seconda giornata del Festival dell'Economia, della settima edizione del Festival dell'Economia, piazza Mario Pasi dietro il Duomo per chi fosse a Trento. Ringrazio anche gli ascoltatori che sono fuori sotto un caldo tropicale, più che trentino, a seguire la diretta attraverso le casse che Radio 24 ha messo fuori dagli nostri studi. Beh, insomma, tre premi Nobel all'economia, vari ministri che si alterneranno in questi giorni, mai un festival dell'economia è stato di maggiore attualità vista la giornata con cui si va a chiudere questa settimana. Siamo abituati che il venerdì, diciamo, gli operatori vadano a trarre profitto, ma oggi c'è obiettivamente dell'altro. In primo luogo citavamo nel collegamento con il GR la Germania. La Germania è la borsa, quella tedesca, che perde di più in questo momento, -3,60%. Poi perde molto anche Parigi, -2,70%, Madrid e Milano in realtà perdono relativamente meno, Madrid -1,5%, Milano -1,80%. L'euro è sotto quota 1,24, 1,2370. Che cosa è successo? Ne parleremo ampiamente nella prima parte del programma. È successo un po' di tutto, nel senso che tensioni fortissime sugli spread italiani e spagnoli, siamo a 480 punti arrivati con lo spread italiano, il decennale, il BTP a 10 anni rende il 5,94%, una soglia che difficilmente si può sostenere per un medio periodo, cioè a noi costa questo livello trovare finanziatori per il nostro debito. La Spagna è messa anche peggio, un BTP, un bonus a 10 anni spagnolo rende il 6,62%, sono livelli, vabbè, non voglio evocare, se no mi autodò il gufo, vicini a quelli dell'Argentina dei bei tempi andati. I CDS, ossia credit default swaps, i premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi sul rischio fallimento di un investimento in Italia o in Spagna, sono saliti sul debito italiano a 575 punti, su quello spagnolo a 609 punti, nuovo record per quelli spagnoli. E sul sito dell'agenzia, che è anche una piattaforma di trading per operare a livello di mercato, Bloomberg, è apparsa, se ne è accorto il Guardian, è una specie di giallo che sta attraversando la City di Londra. Beh, è apparso un codice, ve lo leggo anche, XGD Currency, che sarebbe il codice per trattare la dracma greca post-euro, la dracma greca post-euro. Allora, un bel gufo iniziale, un gufo trentino, un gufo montanaro contro la Bloomberg, e poi partiamo con le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms, il gufo da Trento. Siamo andati a ripescarlo tra i boschi qui del Trentino, dove sperava di godersi un bel weekend il nostro gufo, ma non ce n'è, finché, e ne parleremo. Ve lo dico subito a chi sta già scrivendo gli sms e su Facebook: oggi la mia ossessione personale, la Germania tornerà in tutto il suo splendore. Non mi dispiace per chi ritiene che la Germania si stia ben comportando, secondo me si sta scavando anche lei la fossa in questo modo. Ma andiamo avanti con gli altri dati. Cos'è che oggi ha depresso i mercati oltre misura? Beh, i dati sulla disoccupazione europea, a dimostrazione che o si parte con delle politiche per la crescita, se si tirano fuori un po' di soldi per l'area euro, o non se ne esce. La disoccupazione nell'area euro è andata a nuovi record, e anche in Italia. In Italia siamo al 10,9% di disoccupati nei primi tre mesi del 2012, i giovani ormai sono al 36% quanto a disoccupati. Molto alta anche la disoccupazione nell'area dell'Unione Europea, 17 all'11% in aprile. Pensate che nell'aprile del 2011, cioè un anno prima, eravamo al 9,9, cioè abbiamo preso 1,1 punti di disoccupazione in un anno con queste politiche del rigore, che va bene il rigore, ma non solo il rigore. L'area euro ha perso 110.000 posti di lavoro in un mese e quasi 2 milioni di posti di lavoro in un anno. E poi si è sommata a questo dato anche la disoccupazione americana, risalita a sorpresa all'8,2% a maggio. C'erano previsioni di una creazione di posti di lavoro, ma del tutto quello che è stato il dato definitivo è una creazione di posti di lavoro del tutto inferiore alle attese, solo 69.000 nuovi posti di lavoro. E i timori sulla frenata dell'economia mondiale si vedono anche sul prezzo del petrolio in caduta libera a New York, ha perso 3 dollari in un giorno, 83 dollari al barile. Ovviamente alla pompa non si vede niente, ma aspettiamo, come dicono i petrolieri, che si trasferisca sul prezzo finale alla pompa. Anche il Brent, quindi il petrolio del Mare del Nord trattato a Londra, è scivolato sotto i 100 dollari al barile e ai livelli più bassi da 8 mesi a questa parte. Una buona notizia sul petrolio arriva invece per chi volesse comprarsi una Fiat, perché chi comprerà un'automobile del gruppo Fiat pagherà benzina e gasolio solo un euro per 3 anni, cioè un prezzo bloccato per 3 anni. È un'iniziativa del Lingotto in accordo con la rete di distributori dell'IP fino al 31 dicembre 2015. Praticamente, comprando un'auto verrà data una card che permetterà di pagare il carburante solo un euro al litro sulla rete dei distributori IP, per un rifornimento totale di 2.000 litri corrispondenti a circa 45.000 chilometri, che la Fiat stima essere la percorrenza media di circa 2 anni e mezzo di utilizzo. E piuttosto che niente, meglio piuttosto, come dicono a Milano. Andiamo avanti con le altre notizie, anche se c'è poco oltre alle tensioni sul debito, sul sisma emiliano, possibili aiuti di Stato per le imprese. La Commissione europea valuterà infatti le opportunità legali, sapete che in Europa sono proibiti nell'area gli aiuti di Stato, le possibilità legali che lo Stato possa dare, destinare dei fondi per le piccole e medie imprese colpite dal sisma in Emilia. E comunque dall'Unione europea arriverà anche un fondo di solidarietà che potrà garantire risorse per il 2,5%, capirai, dei danni provocati dal sisma in Emilia. Parleremo nel corso del programma anche della vicenda Generali. Il titolo, adesso ve lo leggo, va bene, più 2,74%, anche Mediobanca, che è azionista Generali, più 3,5%. Insomma, domani consiglio di amministrazione straordinario del gruppo Generali, Giovanni Presinotto non avrebbe più la fiducia di Mediobanca, che appunto è il primo azionista delle Generali con il 13,5%. Tra i possibili successori dell'amministratore legato si fa già il nome di Mario Greco, ex amministratore legato di Allianz e RAS. Presinotto, in una nota oggi, ha detto: non mi dimetterò, e ha attaccato sull'operazione fondiaria SAI, ha detto: non esiste un motivo oggettivo per che io mi dimetta, sono incredule sul momento scelto del primo azionista Mediobanca per convocare d'urgenza un consiglio di amministrazione. Però un altro azionista di peso, non solo per le azioni che ha ma per il ruolo che ricopre, e mi riferisco a Leonardo Del Vecchio, se ne è uscito con una nota morbida è sull'amministratore delegato dei Generali Presinotto. Ha detto: ho letto con grande stupore ed amarezza la lettera di Giovanni Presinotto ai consiglieri di Generali, che è stata resa pubblica dagli organi di stampa. Da essa traspare chiaramente che già da tempo l'attuale CEO, cioè l'attuale amministratore legato, non è adeguato a gestire le Generali. Una cosa così, ha usato un francesismo: non è adeguato a gestire le Generali, e Greco sarà un cambio di passo per le Generali. Addirittura poi l'amministratore legato di Unipol ha detto che Presinotto lede l'immagine di Unipol, dovrà rettificare alcune sue dichiarazioni. Insomma, maretta sulle Generali, la borsa ne approfitta premiando il titolo, sia Generali più 2,86 che Mediobanca più 3,55, bene anche la Popolare di Milano più 2,30, Telecom più 2%, Popolare Emilia Romagna più 1,5, male invece Salvatore Ferragamo meno 6,60, Tenaris meno 5,60, A2A meno 5, Fiat Industria meno 4,70, Saipem meno 4,30, Luxottica meno 4, come Pirelli, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 3,90, Tods meno 3,70, Exor meno 3,40, come Mediaset, Buzzi Unice meno 3,20, Lottomatica meno 3, Mediolanum meno 2,90, ST Microelectronics meno 2,70, come Azimut, Enel Green Power meno 2,5, Fiat meno 2,30, Monte dei Paschi e Autogrill perdono il 2%. e anche Enipad dell'1,70%. Dunque 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo, come immaginabile, subito col primo tema e mi riferisco alla situazione sui mercati internazionali, alle tensioni di nuovo sul nostro debito e non solo sul nostro, e alle ipotesi che ormai, insomma, o si cambia passo in Europa oppure l'euro, così com'è, con queste discrepanze, l'area euro non regge più. Allora, visto che ce lo chiedete, l'indice FTSE MIB è ai nuovi minimi, -1,23% in questo momento, e a 12.712 punti, ne ha toccato anche i 12.600 punti oggi. Dicevamo dei CDS e degli spread altissimi. La cosa che mi fa impazzire è che nel frattempo la Germania continua a avvantaggiarsi di questa situazione. Perché? Perché i rendimenti dei BTP tedeschi a due anni, dei Bund a due anni, sono negativi anche a livello nominale, cioè rendono -0,02%, il che vuol dire che a qualunque imprenditore e privato cittadino tedesco convenga e conviene indebitarsi piuttosto che tenere i soldi in banca, perché quando il rendimento è -0,02, l'inflazione è al 3, non bisogna essere un gran matematico, un gran economista per capire che allo Stato tedesco conviene in questo momento fare debito, perché gli costa meno di quello che è l'inflazione. Di questo parleremo con alcuni ospiti del Festival dell'Economia qui a Trento. Ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi qui appunto a Trento Gregorio De Felice, che è capo economista del gruppo Intesa San Paolo. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie anche a tra chi fa gli onori di casa, ieri Tito Boeri, oggi Innocenzo Cipolletta, economista, è presidente dell'Università di Trento, ex direttore generale della Confindustria, è anche presidente del Sole 24 Ore, why not? E voi siete gli organizzatori assieme alla Terza e a Boeri del Festival. Buonasera anche a lei, Cipolletta. Buonasera. Allora, De Felice, andiamo subito a non giriamoci tanto attorno, al di là del referendum irlandese, che vabbè. Insomma, qui abbiamo tre Nobel all'economia che stanno discettando sul tema più grosso che c'è in questo momento in Europa, cioè la disoccupazione. I dati di oggi sono allarmanti, 2 milioni di posti di lavoro che sono persi nell'area euro nell'arco di un anno. Allora, io non so se sono troppo antitedesco, ma mi dica lei qual è un buon motivo in questo momento per sostenere la linea di Angela Merkel, che dice no agli Eurobond, no ai Project Bond, no a una banca centrale europea che stampi di moneta e che garantisca in ultima istanza per le banche dell'area euro. Ma io credo sia davvero difficile poterle dare ragione. A me o alla Merkel? Alla Merkel. Alla Merkel, nel senso che sull'Eurozona ci stiamo avvicinando al momento della verità. Bisogna decidere e rapidamente, perché il mercato si aspetta delle risposte, quale unione monetaria vogliamo avere. Anche Mario Draghi e Ignazio Visco si sono uniti al coro di chi chiede ai governi di dare dei segnali. Continuiamo ad avere un silenzio assordante da parte delle istituzioni europee. Noi viviamo in un mondo che vede la crescita economica rallentare. Quando la torta si restringe bisogna cercare di essere il più competitivi possibili. Con questa politica del rigore, a cui non è affiancata nessuna politica di sviluppo, noi stiamo regalando la partita agli Stati Uniti. È come una squadra di calcio formata da 17 persone, in questo caso specifico dell'area dell'euro, che fa un autogol uno dopo l'altro. E quindi è chiaro che si fa molta fatica a vincere la partita. Perché? Perché gli Stati Uniti continuano ad avere una politica fiscale finanziata dalla banca centrale, il che non è possibile nell'area dell'euro. Nell'area dell'euro oggi c'è soltanto un giocatore, un'economia, quella tedesca, che si sta avvantaggiando di tassi di interesse particolarmente bassi. Ma alla lunga, e credo che il segnale della borsa di Francoforte sia anche in questa direzione, devo dire che mi dispiace che perda così tanto Francoforte. No, non mi dispiace. Prego. Alla lunga perde anche la Germania. Oggi la Germania ha un avanzo dei propri conti con l'estero particolarmente positivo, del 6% del PIL, gran parte di questi scambi avvengono proprio con l'Europa. Non si può essere forti con dei vicini molto deboli. Molto deboli. E quindi credo che ci stiamo avvicinando al momento della verità. Vogliamo continuare ad avere l'unione monetaria o no? Ecco, questa è la risposta che ci attendiamo soprattutto da Berlino. Sì, su questo io faccio l'esempio ogni tanto, insomma, perché Berlino si sta avvantaggiando oltre misura, è sicuramente più virtuosa di noi, ha messo i conti in ordine, gli va riconosciuto tutto un insieme di rigore nei conti, però è come quando tu uscivi interrogato a scuola e ne sapevi abbastanza ma non tantissimo e ti trovi accanto un compagno che ne sapeva meno di te, tu prendevi 7 invece che 6, lui prendeva 5, cioè spiccavi, emergevi per contrasto. Allora, siccome Spagna e Italia hanno un problema di conti pubblici sicuramente più serio e c'è la fuga dal rischio, tutti a comprare, diciamo, debito tedesco. Non penso che sia, dopodiché qualcuno mi deve spiegare, visto che vedo molti messaggi, perché i nostri spread un anno fa fossero a 140 punti ad aprile del 2011, quando mi sembra che l'Italia obiettivamente sulla tenuta dei conti abbia fatto più cose adesso che un anno fa: riforma delle pensioni, purtroppo aumento della tassazione IMU e quant'altro, vediamo quando la spending review. Ecco, eppure noi un anno fa eravamo considerati 3 volte meno a rischio rispetto ad adesso. Se qualcuno mi viene a spiegare che l'Italia un anno fa era messa meglio di adesso, gli diamo qua in diretta il Nobel all'economia. Detto questo, a me ha molto impressionato, e vengo anche a Innocenzo Cipolletta, questa incapacità di visione, nel senso che prima Gregorio De Felice diceva: attenzione, il 50% dell'export tedesco è in Europa. Oggi la borsa di Francoforte perde il doppio di quella italiana e anche di quella spagnola. Se si ferma e si pianta giù l'Europa, e i dati sulla disoccupazione di oggi sono molto chiari su questo, io vorrei capire, ma dove va a esportare la Germania? Sì, il modello tedesco è un modello che si adatta a un piccolo paese. Purtroppo noi in Europa continuiamo a ragionare come se fossimo una somma di piccoli paesi, ognuno dei quali deve sgomitare e pestare i piedi all'altro per riuscire a andare avanti, con il risultato che stiamo tutti quanti indietro. Il modello che sta utilizzando la Germania va bene per la Svizzera, cioè siamo un piccolo paese, vogliamo avere una moneta forte, avremo qualche prodotto di qualità, quindi ce la faremo, esporteremo questi prodotti altrove e chi si è visto si è visto. Noi siamo ormai un paese da 500 milioni di abitanti, l'Europa, che è il mercato più grande del mondo, il mercato di consumo più forte. Siamo il paese che ha la maggiore responsabilità nel mondo, perché onestamente siamo i più ricchi del mondo complessivamente. Questo paese non può viaggiare come se fosse una piccola Svizzera, deve avere una visione diversa e un mondo diverso. L'abbiamo avuta, perché negli anni 50, 60, 70 noi abbiamo avuto governanti che hanno avuto una visione lunga. Non mi si venga a dire che è l'Europa che non può fare queste cose, sono i governi europei che non lo sanno fare. L'Europa è capace di fare tutto, abbiamo dei governi europei incapaci. E questo è quello che noi stiamo pagando. Lei prima diceva, ma perché l'Italia, che pagava uno spread molto più limitato un anno fa rispetto adesso, ma perché un anno fa e 2 anni fa si continuava a pensare che i debiti sovrani erano debiti garantiti dagli stati, che gli stati, stando tutti insieme in Europa, erano garantiti dall'Europa. E un bel giorno è stato detto al mercato: non è vero, noi non garantiamo niente, ognuno va per conto suo. E allora il mercato ha cominciato a distinguere quelli che erano più prossimi a cadere, che erano quelli che invece resistevano. Ma non è che hanno fatto una scelta morale, hanno fatto una scelta di convenienza. Se un titolo può scendere, io lo vendo a termine e ci guadagno. Allora, i mercati che hanno titoli non difesi sono mercati oggi che hanno volatilità e che generano grossi guadagni agli speculatori. Lo hanno capito gli americani, i giapponesi e gli inglesi. Con la loro banca centrale hanno detto: più di tanto il tasso di interesse non sale. Lo ha capito la Svizzera, che ha dichiarato che il franco svizzero è agganciato all'euro e non si muove. Poiché noi sappiamo che stanno entrando molti capitali in Svizzera, questo significa banalmente che la banca centrale interviene per mantenere il tasso di cambio a quel livello. Cioè non vuole un franco svizzero troppo forte. Assolutamente. Perché sennò anche la Svizzera inizia a avere problemi. Quindi tutte le banche centrali stanno intervenendo, tranne una. La BCE. E quindi noi stiamo pagando questo costo. Sì, ecco, chiarisco che la BCE non interviene non perché Mario Draghi non voglia, ma perché nel suo mandato, finché non le cambiano il mandato, c'è un uno e un unico obiettivo. Ma questo è vero fino a un certo punto. Prima di tutto Mario Draghi è stato abbastanza abile, ha trovato un escamotaggio. Certo. E secondo, la politica è fatta da atti che possono essere anche non convenzionali. E io credo che abbiamo bisogno di persone che se ne assumono la responsabilità, ivi compreso Mario Draghi. Cioè le dice, potrebbe anche forzare la mano? Assolutamente, se no non c'è politica. Se ognuno di noi aspetta che ci sia qualcun altro che gli dia l'ok, stiamo freschi. Sì, non è però, adesso vorrei chiedere anche a De Felice, ho capito cosa dice Cipolletta, se la Merkel, perché è in campagna elettorale, non si decide, e poi non mi sembra che abbia sta visione, mi sembra un po' una ragioniera dell'Est Europa, però, e lo dice Schröder, lo dice il suo ex padre putativo Helmut Kohl, no? Leggete le interviste in queste settimane, non lo dico io, però... Innocenzo Cipolletta dice, beh, Mario Draghi potrebbe muoversi in autonomia, del resto lui rappresenta non solo la Bundesbank ma rappresenta le banche centrali di tutti i paesi dell'area euro. Non sarebbe un ruolo un po' improprio della BCE? Perché ieri Draghi ha detto, attenzione, non chiedete a noi di fare quello che i governi e la politica non riescono a fare. Ma sono proprio i ruoli impropri quelli che fanno la politica e che fanno le svolte. Se ogni politico, ogni tecnico si ferma a quello che può fare, noi affondiamo tutti quanti. Gregorio, sulla BCE però bisogna chiarire a chi ci ascolta che ci sono due questioni. La prima questione è, per statuto la Banca Centrale Europea non può comprare direttamente i titoli di Stato nelle aste, cioè per capirci sul mercato primario, perché quello rappresenta un finanziamento. Cioè quando noi collochiamo il debito non può essere comprato il nostro botto BTP dalla BCE direttamente. Direttamente sul primario. Questo lo statuto non lo permette, quindi anche una persona di grande visione, un dittatore, un rivoluzionario non lo può fare perché sarebbe una violazione del trattato. L'altro tema invece è diverso. Comprare sul mercato secondario è nell'ambito di un programma che si chiama Securities Market Program, che la BCE ha adottato in altre fasi, in particolare su Spagna e Italia, dopo le famose lettere al governo italiano e spagnolo. In questo momento la BCE non sta comprando e questo lascia un po' disorientati gli operatori, che invece si aspettano da un momento all'altro un intervento della BCE in questa direzione per calmierare il mercato, o perlomeno dando l'annuncio che potrebbe farlo per spaventare un pochino chi sta scommettendo contro i paesi periferici, e quindi questo è molto critico. Evidentemente se la BCE non lo fa, non c'è un accordo nell'ambito del board che governa la BCE per quanto riguarda il ritorno agli acquisti sul mercato secondario. Allora, personalmente io che non conto nulla resto l'idea che una botta arriva anche alla Germania, nel senso un calo dell'export, un andamento della borsa insoddisfacente, o se no un tedesco sotto elezioni, un politico tedesco sotto elezioni in questo momento non va a Angela Merkel, probabilmente terrà la barra dritta, la sua barra dritta, e andrà avanti su questa linea del rigore. Detto questo, è chiaro quello che diceva Innocenzo Cipolletta, cioè bisogna anche tentare degli atti coraggiosi fuori dall'ordinario nel momento in cui la situazione precipita. È chiaro altrettanto che noi stiamo offrendo, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, stiamo offrendo alla speculazione, è inutile prendersela con la speculazione, diciamo ogni tanto che sono avvoltoi, ed è vero, ma voi non avete mai visto un avvoltoio volare sopra un leone vivo, di solito vola sopra una carcassa o un animale che sta morendo. L'avvoltoio è avvoltoio, ma non è stupido, non è mona l'avvoltoio, è un avvoltoio, per cui questi si muovono perché noi abbiamo offerto in un anno e mezzo tutti gli spazi possibili per l'incertezza, per cui per far scappare i fondi pensione di tutto il mondo dall'area euro e per far arrivare tutti gli speculatori, perché quando tu dici la Grecia la salviamo, forse sì, forse no, un giorno sì, un giorno no, è chiaro che uno inizia a dire, beh, se non salvi la Grecia non salvi neanche il Portogallo, se non salvi il Portogallo non salvi neanche la Spagna, e via così, poi si arriva al pesce grande che è l'Italia. De Felice, i suoi colleghi delle banche tedesche, io la chiedo sempre questa cosa, è vero che sono preoccupati, cioè che un conto è il borgomastro che vota e un conto è chi lavora sui mercati finanziari? Beh, io, gran parte dell'intelligenza della classe dirigente tedesca naturalmente è preoccupata e ha ragione di una situazione del genere. Non è un vantaggio che può durare in eterno, questo per la Germania, è un vantaggio temporaneo, quello di avere dei tassi di interesse particolarmente bassi. Ma se qui salta il banco, per capirci, cioè si ritorna alle singole valute nazionali, diventa un grosso problema anche per il mondo finanziario tedesco. La Bundesbank, con il meccanismo delle riserve create accumulate con gli avanzi commerciali, ha circa 650 miliardi di euro di crediti nei confronti delle altre banche centrali, incluse principalmente dei paesi periferici. Quindi se ci dovesse essere uno sgretolamento dell'euro, insomma, sono 650 miliardi che l'economia tedesca perde. Ecco, no, giusto per dare un esempio. Dopo il metodo pubblicità vi leggerò invece quanti aiuti hanno ricevuto come forma di garanzia le banche tedesche, perché a me che qualcuno faccia il primo della classe quando poi non è il primo della classe mi girano un po', e quanti aiuti hanno ricevuto le banche italiane. Zero. Hanno tanti difetti le banche italiane, le critichiamo spessissimo, però zero aiuti. Le banche tedesche hanno ricevuto 480 miliardi di garanzie, anzi la dico subito così, e quindi fai il primo della classe, però diciamo il papà e la mamma ti hanno aiutato a fare i compiti a casa, ti hanno dato anche la versione tradotta. Allora, primi della classe un po' meno, dopodiché attenzione che se affonda Titanic affonda anche la prima classe, per riassumere il discorso di Gregorio De Felice. Ieri sera, di fronte a un esterefatto Barack Obama che ha pensato, ma sti europei, oltre a far casini, sanno far qualcosa, hanno litigato. Da un lato c'era Mario Monti e François Hollande, dall'altro Angela Merkel. No, la Germania non regalerà soldi alle banche spagnole. A parte che regalare soldi alle banche spagnole è veramente un concetto da elemosina, però. E per tre volte Angela Merkel ha detto no, in inglese e, per non sbagliare, anche in tedesco. E così ieri l'Europa si è spaccata in teleconferenza di fronte a uno sbalordito Obama, ma noi sudditi tedeschi dobbiamo stare allegri. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Oh, la borsa ha chiuso meno 1%, quindi non sui minimi Milano, è rimasta invece sui minimi Francoforte, meno 3,31%, ha perso tre volte più di Milano, anche un po' di più. Parigi meno 2,20, e devo dire che anche Madrid meno 0,40%. Visto che ho Gregorio De Felice qui, che è stato anche presidente dell'AIF, Associazione Analisti Finanziari, secondo lei perché oggi ha perso il triplo Francoforte rispetto a Milano e a Madrid? Ma io credo perché abbiamo accumulato talmente tante perdite in queste settimane che può essere anche un rimbalzo tecnico, una correzione. E penso che il mercato si cominci a essere molto preoccupato di un fatto, cioè mentre prima si scommetteva molto su un euro senza i periferici, ora si comincia a capire molto di più che la stessa Germania da sola avrebbe ripercussioni molto negative. Io leggo in questa maniera questo segnale della borsa di oggi. Innocenzo Cipolletta, oggi Berlusconi ha detto la banca centrale stampi moneta, o potremmo dire ciao all'Unione Europea. Secondo me questo è condivisibile, cioè in qualche modo, da qualche parte bisognerà imbarcare un po' di inflazione. Chi se ne frega dell'inflazione al 3% quando è solo petrolio che la genera, e magari questo ci farebbe respirare sul debito, perché con un'inflazione un po' più alta si abbassa il valore reale del debito e permetterebbe di avere più contanti in circolazione. Però ha anche detto vi do un'idea pazza, cominciamo a stampare euro noi con la nostra zecca di Stato. Berlusconi, sempre immaginifico, si può fare? No, credo di no, che non si possa fare. Stampare moneta invece l'Europa lo può fare, questo lo ha detto anche oggi qui a Trento Barry Eichgreen, e ci ha ricordato che è quello che stanno facendo gli Stati Uniti d'America. Vorrei poi ricordare che il timore dell'inflazione, se si monetizza un debito, esiste, però teniamo presente che l'America sta monetizzando il debito da anni e sta inondando il mondo di dollari. Quindi se è vera la relazione più moneta più inflazione, noi avremo più inflazione. È l'unica maniera che possiamo nel futuro evitare questa maggiore inflazione, che ci verrà dagli Stati Uniti d'America è che l'euro si rivaluti, ma a dei livelli tipo, che ne so, 200 rispetto al dollaro o 300 rispetto al dollaro. Così eviteremmo l'inflazione del futuro, ma saremo tutti morti. Quindi non c'è una possibilità in un mondo integrato di condurre una politica individuale da parte di uno Stato grande come l'Europa. Torno a quello che avevo detto prima nella volta precedente. Questa politica sarebbe possibile se l'Europa fosse la Svizzera, cioè se fosse un paesino di un numero limitato di persone che decide di far rivalutare la sua moneta, certo, e di porsi su una situazione diversa. E questa è la differenza. L'Europa non lo è, l'Europa è un grande paese e deve fare quello che fanno anche gli Stati Uniti d'America in questo momento, anche se fosse sbagliato. Sì, su questo attenzione, perché c'è ancora chi dice, vabbè, sempre soliti insulti, vabbè, e allora non era colpa di Berlusconi. Abbiamo spiegato migliaia di volte che a quel tempo c'era un problema ulteriore per la debolezza del governo Berlusconi, per cui noi eravamo prezzati più a rischio anche dalla Spagna, mentre perlomeno adesso siamo meno a rischio dalla Spagna, ma non è che questo mi basti. Vorrei capire invece con Gregorio De Felice che cosa sta emergendo, da visto che abbiamo tre premi Nobel qui a Trento, che cosa sta emergendo dalla visione degli altri. Sono premi Nobel americani che ieri voi avete incontrato, guardano all'area euro con preoccupazione, perché parliamoci chiaro, Cipolletta, l'America può stampare dollari perché siamo noi che gli teniamo su il valore dell'euro, e l'America ha fatto una politica assolutamente italiana, europea, e noi stiamo facendo una politica assolutamente americana, cioè siamo più rigorosi degli americani. Ma insomma, quanto forte era, difficile, la preoccupazione dei premi Nobel che si sono alternati in questi giorni? Evidentemente è molto forte, sono preoccupati dalla complessità della gestione del governo europeo, ogni trattato deve essere ratificato, sono preoccupati dal fatto che ad esempio il cosiddetto ESM, lo European Stability Mechanism, che dovrebbe partire il 1° di luglio, non è ancora stato ratificato se non da 5 o 6 paesi, quindi siamo estremamente in ritardo. E poi raccomandano nelle loro ricette di garantire maggiore flessibilità al sistema economico, avere una semplificazione nelle strutture produttive, nel favorire l'innovazione. E noi stiamo facendo molto poco di tutto questo. L'Europa aveva degli obiettivi estremamente ambiziosi, ma senza delle sanzioni, come invece abbiamo visto per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, l'impressione che stiamo offrendo e che vediamo anche come cittadini europei è di un'Europa che non fa più emozionare, che vista come un insieme di regole, di sanzioni, di burocrazia, ma che non scalda i cuori, non crea delle prospettive di benessere, di prosperità, soprattutto per i giovani. E questo io penso che sia estremamente pericoloso. È un tema politico, è un tema di consenso politico. Vediamo risultati elettorali un po' in tutti i paesi dove cominciano a prevalere o a guadagnare spazio dei partiti anti-euro, anti-Europa, e questo dovrebbe essere un forte campanello, un campanellone d'allarme per gran parte della leadership europea. Allora, vorrei, dopo il traffico, poi passiamo alla borsa, una risposta sullo stesso tema da parte di Innocenzo Cipolletta. Devo dare una risposta però a alcuni ascoltatori che dicono: attenzione, la Germania si ricorda ancora che per colpa dell'inflazione arrivò Hitler. Questa è una balla storica. Purtroppo anche i tedeschi conoscono male la loro storia. Quando scoppia la crisi del 29, la Germania ha in buona parte già ricondotto in maniera più normale quell'inflazione del 1000-2000% che obbligava i tedeschi a andare col carretto, qualcuno ha visto le foto, con miliardi di marchi per comprare il pane. Era già ricondotta quell'inflazione. Quello che succede nel 29-30 è che mentre gli Stati Uniti con Roosevelt e l'Italia, devo dire, con Einaudi e Mussolini con Liri, buttano soldi pubblici per tenere in piedi l'economia, la Germania, per non peggiorare i conti pubblici, dà un giro di vite, come sta facendo adesso, come sta obbligando adesso a fare l'Europa, con la conseguenza che il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler nel 28 aveva lo 0,5% dei voti. Dopo questa bella politica di rigore, nel 33, con milioni di disoccupati tedeschi, alle elezioni becca il 18% dei voti. E devo dire che quello che lei diceva, De Felice, su come sono andate le elezioni in Francia, con la Le Pen al 18%, in Grecia, io manco sapevo ci fossero neonazisti in Grecia, neonazisti e neocomunisti, sta dimostrando che con la pancia vuota l'elettorato vota gli estremi. Già Gregorio De Felice raccontava, insomma, della preoccupazione dei Nobel americani. Voi avete organizzato un festival dell'economia tutto sulle generazioni, su quello che lasciamo, sul patto generazionale. Insomma, mi sembra che il tema resti, per carità, ma venga un po' travolto dalle notizie di questi giorni. Ha notato anche lei una grossa preoccupazione negli osservatori, negli economisti esteri e stranieri? Sì, assolutamente, però vorrei ricordare che questo tema è il tema attuale, perché se oggi noi parliamo di salvare l'euro e salvare l'idea dell'Europa, stiamo parlando delle generazioni future, non stiamo parlando di me o di lei, perché noi in qualche maniera sopravviveremo. Stiamo capendo che cosa succederà nel futuro, se dobbiamo spaccarci nuovamente come piccole nazioni con il rischio di tornare a fare una guerra, o se possiamo pensare finalmente di essere cittadini europei, dove se un paese ha delle difficoltà gli altri paesi gli danno una mano e non gli danno una zampata da una randellata ulteriore. Quindi è di questo, e tant'è vero che gli economisti americani per la prima volta, e questo mi ha molto meravigliato, devo dire la verità, sono venuti qui a dirci che dobbiamo difendere l'euro. Che dobbiamo fare più Europa, che l'Europa deve essere unita. Attenzione, l'idea dell'euro non piace agli americani, la gran parte degli americani non è mai piaciuta, i giornali americani parlano sempre che tra poco si spacca tutto quanto, però chi ragiona e chi studia economia ci sta dando questi consigli di andare avanti e di cercare di vincere questa paura di dover aiutare, come si dice, qualcheduno, qualche altro paese, perché noi stiamo costruendo quella che domani sarà l'istituzione mondiale. Il mondo ha bisogno di grandi istituzioni che raggruppano diversi paesi, che non sarà un nuovo paese, saranno istituzioni dove mantengono una certa sovranità nazionale, al tempo stesso in cui ci sono degli organismi ipernazionali che riescono a prendere le decisioni rapidamente. L'Europa sta tentando questa esperienza, che domani verrà imitata dagli altri paesi, se non la buttiamo a mare. Vabbè. De Felice, per chiudere, è arrivata anche qualche proposta, perché in tema di mercato del lavoro, che è la notizia di oggi, oltre alle nuove tensioni su spread e CDS, da lei, poi ripresa anche ieri da Pissarides, se non ricordo male, premio Nobel dell'economia nel 2010, la proposta di detassare, e questo l'Italia lo può fare anche come legge nazionale, detassare parte delle tasse sul lavoro, quindi dei costi che ho io come dipendente per la mia azienda, di quello che poi mi resta in busta paga, il famoso cuneo fiscale, per i primi due anni, se ho ben capito, delle neoassunzioni? Sì, la proposta è questa, per cercare di incentivare le assunzioni in un momento eccezionale come questo di elevatissima disoccupazione, in particolare per quanto riguarda quella giovanile, di mettere a carico dello Stato il contributo, il cuneo contributivo, sia la componente del datore di lavoro, che vale all'incirca il 32% del salario lordo, sia la componente a carico del lavoratore, che vale il 9,5% del salario, quindi complessivamente un 40% circa a carico dello Stato, per favorire imprese che riescono in questo momento ad avere la forza, il coraggio, la prospettiva di assumere nuovi lavoratori. La proposta non ha un costo particolarmente elevato, nell'ipotesi forse ottimista di avere circa 100.000 nuovi assunti in un anno, implicherebbe un costo a carico dello Stato per 500 milioni di euro, che possono essere reperiti tramite l'evasione fiscale o la spending review. In particolare per le start-up, cioè le nuove aziende che partono, in particolare quelle nel campo tecnologico e così via, questo incentivo potrebbe essere più lungo nel tempo, durare anche 5 anni. Io penso che sia una proposta che meriti attenzione, considerando quello che le politiche degli scorsi decenni hanno creato oggi per i giovani. 20 anni fa non avevamo il debito pubblico al 120% del PIL, nel 1980 era al 60% del PIL. Quindi oggi noi abbiamo regalato ai giovani che nascono un debito pubblico pro capite di oltre 30.000 euro, credo che in qualche modo, visto anche che il tema del festival è i rapporti tra le generazioni, credo che dobbiamo cercare di compensare in maniera molto equa, di riequilibrare questi costi. Allora, grazie al capo economista di Intesa San Paolo Gregorio De Felice, grazie al presidente dell'Università di Trento, in questo caso quindi chi fa gli onori di casa, Innocenzo Cipolletta. Io dico a tutti quelli che ci scrivono, il programma adesso va avanti, facciamo la borsa, poi la vicenda generali, e quindi uniamo per il sinotto Bellissima la battuta che mi ha scritto un ascoltatore: ma come, arriva un greco alle generali? No, arriva greco alle generali, non un greco alle generali. Grazie, pensate anche a altro, cioè, Trento è una città bellissima, si mangia bene, l'Italia è un paese pieno di risorse, però qua o c'è una soluzione politica, lo dico a chi scrive difendendo la Germania, o c'è una soluzione politica forte o qui stiamo andando allo stilicidio giorno per giorno, cioè stiamo strangolando il gattino senza che se ne accorga, come diceva Mao. Sì, vedo anche molti messaggi che dicono l'Argentina ce l'ha fatta da sola. Beh, insomma, intanto ha svalutato il peso, per cui per 2-3 anni non si comprava più un jeans in Argentina, e poi ricordiamo il corralito, il blocco dei conti correnti in Argentina. Dopodiché l'Argentina ha avuto la possibilità di svalutare quello che alla Grecia non viene concesso, e infatti cosa si fa? Si distruggono i salari, cioè si dice tu diventi competitiva avendo un costo del lavoro più basso perché le tue merci costeranno meno, ma in questo modo si bloccano i consumi interni. Dati pesanti sulla disoccupazione sia nell'area euro, ormai all'11%, sia in America, che dove la disoccupazione a sorpresa è salita all'8,2%, le borse hanno reagito male come presumibile, hanno chiuso meglio però, nel senso che Milano ha perso l'1% a 12.739 punti, ma era arrivata a metà pomeriggio al minimo storico il FTSE MIB, e quindi peggio di quello del 9 marzo 2009, quando chiuse a 12.621 punti, è arrivata oggi a 12.617 punti. Comunque, al di là dei punti, siamo sulla soglia del minimo storico da sempre per quello che riguarda Piazza Affari. E poi la notizia a cui abbiamo dedicato il nostro gufo in apertura, e cioè che sul terminale, sulla piattaforma per fare trading Bloomberg, è apparsa anche un codice per la dracma greca, dracma greca post euro, a segnalare che gli operatori si stanno preparando anche con i codici operativi a un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Ce n'è abbastanza per commentare la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa, al di là della vicenda Mediobanca, più 3,70%, Generali più 3,35% e Telecom. Mediobanca e Generali si tengono, Mediobanca è il primo azionista delle Generali, domani CDA straordinario, tra poco ne parleremo. Telecom più 2,5%, Popolare di Milano più 2,1%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 1,5%, male tutti i settori industriali di questo paese: Salvatore Ferragamo meno 5,80%, Tenaris meno 5,30%, A2A meno 5,17%, Saipem meno 4,40%, Fiat Industria meno 4,12%, Luxottica meno 4%, Tods meno 4%, Pirelli meno 3,90%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 3,60%, Mediaset meno 3,30%, Exor meno 3,20%, Mediolanum meno 3%, come Buzzi Unicem, Lottomatica meno 2,70%. Siamo come sempre in collegamento con Radio Corriere sulle 24 ore per il commento di borsa. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Diciamo che c'è stata una leggera risalita dopo i minimi toccati a metà pomeriggio. Tralasciamo un attimo Mediobanca Generali. Ferragamo meno 5,86, Tenaris tutti in negativo, i settori industriali, sì, tutti in negativo, sia il settore industriale che il settore lusso. In qualche modo c'è un elemento comune che li lega, che è questo rallentamento dell'economia cinese, dopo che questa mattina sono stati diffusi i dati sull'indice manifatturiero cinese, appunto, che sono scesi più delle attese. Per quello che riguarda il lusso c'è un ulteriore elemento: gli operatori hanno dato una grande importanza al fatto che un gioielliere londinese, Graff Diamonds, abbia rinunciato alla quotazione a Hong Kong a causa delle difficili condizioni di mercato. Questo è andato un po' a ripercuotersi su tutto il settore in Europa, e a Milano l'abbiamo visto bene su Ferragamo meno 5,86%, ma anche Luxottica meno 4,05%, Tots meno 4,02%, a dimostrazione che anche il lusso, che avevamo spesso considerato come uno di quei settori che resisteva meglio, inizia, come dire, a scricchiolare a sua volta. Ecco, oggi cede anche Fiat, non solo Fiat Industrial, quindi camion e trattori meno 4,12%, ma anche Fiat Auto meno 1,90%, nonostante Oggi si è stato diffuso il dato sulle vendite americane di Fiat Chrysler, più 30% a maggio. Sì, oggi Fiat ha ceduto, ha fatto comunque meno 1,89%, che è leggermente meglio del settore auto europeo nel suo complesso. Fiat in questa fase continua a pagare l'esposizione sull'Europa. A borsa chiusa sono usciti i dati sulle immatricolazioni in Italia, che hanno fatto segnare un altro meno 11% per Fiat, comunque meglio, diciamo, del mercato, che continua a perdere anche di più in Italia, mentre dall'altra parte dell'oceano, così negli Stati Uniti, Chrysler continua ad andare molto bene, ha fatto più 30% di immatricolazioni a maggio, e si tratta del miglior mese di maggio da 5 anni a questa parte. Ancora oggi negativi i settori industriali, tu citavi il lusso giustamente, ma negativi anche gli altri settori industriali, penso nel caso specifico a Tenaris meno 5,40%, ma anche gli energetici, oltre a Saipem, Eni perde l'1,35%. Sì, qui abbiamo un calo ancora molto evidente del prezzo del greggio. Oggi il WTI ha perso il 3,5%, il prezzo del petrolio è sotto gli $84 al barile, e questo va a ripercuotersi su questi titoli. Per quello che riguarda Tenaris, meno 5,36%, paga il fatto di aver performato meglio in borsa di alcuni suoi concorrenti come Vallourec, per cui gli operatori sostanzialmente ritengono che abbia poche potenzialità di vedere il suo prezzo crescere ancora, e si stanno posizionando su alcuni altri suoi concorrenti. Ancora, per quello che riguarda, volete sapere delle quotazioni dell'oro? È vero che il petrolio oggi è molto calato, ha perso $3 nella quotazione a New York, ma anche l'oro è leggermente in calo, è sui mercati asiatici a $1,551 l'oncia. Per quello che riguarda invece i titoli, sempre tralasciando le generali che avranno un apposito approfondimento oggi, Finmeccanica. Sì, Finmeccanica aveva più 1,41%. Sì, aveva aperto subito abbastanza bene, poi diciamo è un po' scesa sul finale. Ieri c'è stato questo annuncio che il fondo strategico è pronto a rilevare il 14% delle quote di Finmeccanica in avio, e si tratta di un primo esempio delle varie dismissioni che il gruppo Finmeccanica sta cercando di portare avanti in questi mesi. Ricordiamo, se ne era parlato molto anche in passato, di Ansaldo Breda, Ansaldo STS eccetera. Questa dovrebbe essere la prima vera dismissione che si vedrà nel gruppo Finmeccanica. E adesso vediamo, c'è un ultimo dato: la borsa di Parigi è ai minimi da 6 mesi a questa parte. Oggi infatti il mercato ha penalizzato soprattutto Francoforte, meno 3,31, prima Gregorio De Felice diceva è un segnale che inizia a contagiare anche la Germania, ma magari questo servirà ai tedeschi a svegliarsi, e Parigi meno 2,20%. Vorrei però con te, Guido, adesso passare veramente, Telecom Italia, se vogliamo commentare, più 2,5%, e poi passiamo alle generali. Sì, niente di partito su Telecom Italia, se non il fatto che il TAR oggi ha bocciato una commessa da 500 milioni, ma l'ha riconosciuta comunque valida fino al 2013, quindi insomma l'incertezza per Telecom, eventualmente oltre la data del 2013, è una commessa molto grossa, e questo è una buona notizia, diciamo, per il titolo Telecom Italia. Mediobanca e generali. Dunque, Mediobanca è il principale azionista delle generali di Trieste, e ha una quota del 14%, vado a memoria, spero di non sbagliarmi. Qui si attende dal Consiglio straordinario di domani le dimissioni. È stato convocato anche per questo, del numero uno per il Sinotto, il quale però oggi in una lettera ha detto, adesso ne parleremo, non ho nessuna intenzione di dimettermi. Perché la borsa compra generali e Mediobanca? La borsa compra Mediobanca e Generali perché si attende un cambiamento sostanzialmente. Come abbiamo visto spesso in vicende di finanza, quando si attende un cambiamento dopo un periodo relativamente lungo di stabilità, si scommette un pochettino sul futuro, ed è questo che oggi ha spinto le quotazioni sia di Generali più 3,35% che di Mediobanca più 3,69%. Eh sì, perché per quello che è il terzo gruppo assicurativo europeo, ma il cui titolo ha toccato proprio nei giorni scorsi i minimi storici, domani si va alla redazione, alla resa dei conti, il CDA, o gli azionisti vorrebbero sostituire il group CEO, il numero uno del gruppo, Giovanni Perissinotto, e è stato convocato d'urgenza domani un CDA straordinario, convocato soprattutto da Mediobanca, che è il principale azionista delle generali al 13,4%. Ma oggi Perissinotto ha scritto una lettera ai consiglieri, poi divulgata ai giornali, dicendo: non mi dimetto, non c'è un motivo per cui io dovrei dimettermi, sono incredulo per l'atto e il momento scelto da Mediobanca, che viene anche attaccata per l'operazione su Fondiere Assai. Mediobanca è molto esposta, oltre un miliardo con il gruppo di Ligresti, e domani dalle prime fonti si dovrebbero avere comunque 11-12 voti contro per il Sinotto. Tra l'altro poco fa ha parlato anche Leonardo Del Vecchio, che è uno degli azionisti al 2% della generale, ha detto: per il Sinotto è da tempo inadeguato, quando arriverà Greco sarà un cambio di passo. Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore, buonasera Riccardo. Salve. Beh, quanto a stracci ci siamo, mi sembra, no? È volato di tutto oggi. Accidenti, anche se le generali per la verità ogni tanto ci abituano a questi fraseggi, chiamiamoli così. Sì, fraseggi così. Senti una cosa, al di là delle dinamiche interne, ma com'è che il titolo è ai minimi storici e l'abbiamo detto, ma com'è che Mediobanca ha preso un'iniziativa così forte come chiedere che venisse convocato un CDA straordinario che ha un unico oggetto, le dimissioni di Perissinotto? Il perché vada male il titolo è ampiamente condiviso un po' da tutti, cioè il titolo va male perché Generali ha in pancia 50 miliardi di titoli di Stato e è visto e percepito dagli investitori di tutto il mondo come rischio Italia. Il rischio Italia aumenta e pertanto il titolo si deprime. Ci si può domandare perché Generali non abbia ridotta questa esposizione BTP prima, però certo col senno del poi tutto è plausibile. La realtà è che forse anche il Tesoro italiano avrebbe avuto qualche problema se l'avesse fatto. Ecco, ma il motivo per cui si dà la colpa di questo però per il Sinotto qual è, Riccardo? Lo si considera, è un po' nello stile Schietto di Del Vecchio, c'è un po' questa sua, c'è il motivo delle dimostranze. Il motivo delle dimostranze è di investitori che hanno comprato il titolo quando valeva 18-25 euro e se lo ritrovano a 8, al metà del suo valore, e considerano Perissinotto poco smart, poco con una strategia non chiara per rilanciare il titolo. Per la verità questo Del Vecchio no, ma per esempio a Caltagirone ha spesse volte apprezzato la capacità tecnica di Del Vecchio nel gestire il business, nel ramo danni, nel ramo vita, eccetera. Ciò non toglie però che loro si aspettano delle strategie più aggressive per risollevare il titolo, che è veramente giunto ai minimi termini, e questo per il Sinotto non l'ha fatto. Non è chiaro neppure se lo possa fare. Oggi la gran parte degli analisti di cui sono giunti i report attraverso le agenzie di stampa che noi abbiamo riportato sul sito del Sole 24 Ore sono scettici su questo cambio al timone di Generali. Quindi il titolo aumenta in borsa per i motivi che si diceva in precedenza. Qualcuno sospetta che vi siano anche alcuni ribassisti che stiano chiudendo le posizioni, ecco, anche questo forse andrebbe segnalato. Quindi tu dici che obiettivamente da parte degli analisti dei report arrivati oggi non c'è tutta questa entusiasmo nel dire tutti giudicano positivamente Greco. Attenzione, Greco è un grande manager assicurativo italiano, adesso sta alla Zurich, e quando lui guidava la RAS che ora è stata incorporata in Allianz, è stato un periodo molto splendido nella vita di quella compagnia, e aveva messo su una squadra di manager di assoluto livello, che infatti adesso sta facendo del bene in tutte le società in cui si sono disseminati, diciamo. Però il punto vero è che il che ci dobbiamo chiedere è che a fronte di 50 miliardi di BTP, anche Greco, che soluzioni ha in mano per risolvere il problema? Quindi questo un po' mi sembrerebbe il problema, perché delle due l'una, o Generali vende, aliena questa cosa e crea un grande problema alla Repubblica, al tesoro, al debito della Repubblica, o invece Generali continua a comprare titoli di Stato come ha fatto in passato e come ha promesso di fare anche in futuro, e allora certamente i problemi del paese in qualche misura sono rispettati, sono... Però si genera un problema in casa lei. Ecco, una cosa vorrei capire, Riccardo, questo però lo dice anche lunga su quanto poi avere uno spread come quello di oggi, 470-480 punti, avere tante tensioni e avere dei BTP che vanno al 6,2% di rendimento, poi penalizzi anche chi ce li ha in pancia, questi BTP e questi bot. Una cosa però vorrei saperla, anzi scusami, il rendimento del BTP decennale è al 5,94% in Italia oggi, per essere precisi. La risposta di Perissinotto è veramente una risposta seccata, insomma, dice, insomma, non mi dimetto, non c'è un motivo oggettivo per farlo. Incredulo della mossa di Mediobanca, a cui tra l'altro ricorda, proprio voi parlate che avete prestato 1 miliardo di euro a Ligresti, che adesso dovete organizzare l'operazione con Unipol per riuscire a recuperarli, se no andavate a fondo. Cioè, il messaggio di Perissinotto è: da quale pulpito viene la predica, no? Da chi ha prestato 1 miliardo di euro al fallito Ligresti. Beh, lì c'è qualcosa veramente di ancora più grave. Si dice che il salvatore sta peggio del salvato. Lui, infatti, Unipol mi sa che vuole far causa per il Sinotto, giudicare la dichiarazione. Beh, è una cosa che è inconsueta, di Cimbri, che i manager si scambino queste. Beh, volono gli stracci anche tra i manager. Ma questa risposta di per il Sinotto, tu la vedi come l'addio definitivo? Cioè, si è levato qualche sasso dalla scarpa perché domani sa che va sotto? Beh, io penso che, cioè, lì parliamoci chiaro, i conti, nessuno farebbe una cosa del genere se non avesse l'assoluta certezza che questa cosa funziona. Per la verità, se uno va a vedere come sono distribuiti i manager del voto, tutte queste certezze ci sono e non ci sono. Io credo che una parte importante la giocheranno gli amministratori di minoranza indicati da Soggestioni. Perché quelli sono tre e possono cambiare un po' le carte in tavola. Certo, dal punto di vista del mercato stupisce che un mese fa l'assemblea si concluda con grande calma, ci sia un CDA sulla trimestrale altrettanto tranquillo, con tutte dichiarazioni ottimistiche e rassicuranti, e poi dopo d'amblè, e questo però rientra un po' nello stile di Mediobanca, degli azionisti eccetera, venga questo colpo di mano. Dal punto di vista del mercato, io credo che sarebbe la cosa forse migliore da fare, sarebbe quello di tornare in assemblea e di dare la parola ai proprietari di Mediobanca, di Generali, ai suoi azionisti, agli azionisti. Secondo me quella sarebbe una cosa da augurarsi. Ecco, perché francamente la compagnia non risolvere tutto, esatto, non risolvere tutto semplicemente nel consiglio di amministrazione a questo punto. Sì, alcuni scrivono Alberto Nagel, che è il numero uno di Mediobanca, vuole far fuori Perissinotto. Grazie, un po' l'avevamo capito anche noi questo, però i motivi ci interessano e dove porterà questa guerra. Pure domani farà caldissimo a Trieste, questo l'abbiamo già capito. Intanto grazie a Riccardo Sabatini. Una nota la devo dare su Disperati Mai, l'iniziativa di Radio 24 per gli imprenditori in difficoltà. Dalla prossima settimana torneremo a leggere, abbiamo fatto un po' di punto di raccolta anche delle migliaia di mail che avete scritto. E torneremo a leggere le vostre email all'indirizzo disperatimai@radio24.it, e la nostra iniziativa si concluderà, se tutto è confermato, con il ministro Passera, che verrà a commentare le migliaia, non tutte però, le principali lettere arrivate proprio a Focus Economia. Per ora da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Conno, come sempre, per l'assistenza in redazione, a Filippo Reggi e Davide Ciocio per l'assistenza in regia e la parte tecnica. Un augurio a tutti voi di un buon fine settimana, Germania permettendo.